Liberi Dentro ed Uradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Mercoledì 21 aprile, buongiorno e bentornati a tutti i nostri ascoltatori tra la città e il carcere, siete su Liberi Dentro ed Uradio. Buongiorno anche alla mia collega Antonella Cortese. Buongiorno a tutti e a tutti. E al nostro Ignazio De Francesco, sempre da Montesole. Buongiorno. Eccoci qua, buongiorno, ciao. Allora, io apro con le notizie di oggi, leggendo dal sito della CGIL, a firma di Denise Amerini, perché detenuti, lavoratori, pari lavoro, pari diritti. È la sintesi dell'intervento alla tavola rotonda, carcere e lavoro, luoghi comuni da smontare, le parole per ricostruire, organizzata da Officine CGIL Parma il 22 marzo scorso. Perché dovete sapere che se la Costituzione non fa differenza tra lavoratori, detenuti e non, e la società invece sì, purtroppo capita questa cosa, anzi, spesso. E ricordiamo cosa dice il nostro articolo della Costituzione, l'articolo 1, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. E invece purtroppo quello che si verifica attualmente con il lavoro è che sembra che il lavoro, soprattutto in carcere, sia un permesso premio, sia una possibilità, sia un'opportunità solo per chi si è comportato bene. Non è così. Questa conferenza ha voluto invece sottolineare il fatto che il lavoro è un diritto. Chi si trova in carcere, la pena è già quello che sta scontando con la privazione della sua libertà, e invece il lavoro è un diritto / dovere che va esercitato. E per questo deve perdere ogni carattere afflittivo, di sfruttamento, di minore riconoscimento, e stabilire pari dignità e pari diritti, per esempio l'orario, le ferie, i contributi, il salario, gli ammortizzatori sociali, cose che oggi non sono affatto scontate. E quindi non può essere un obbligo né una opportunità, ma un diritto-dovere che l'amministrazione penitenziaria è tenuta a garantire. E proprio per questo non può essere declinato, come dicevo prima, come premio per chi si è comportato bene o ha ottenuto una buona condotta. Un particolare aspetto è per il lavoro, per esempio, di pubblica utilità, che nonostante l'abrogazione del lavoro gratuito, la norma consente che i detenuti possano essere utilizzati in attività cosiddette volontarie, di pubblica utilità e gratuite. Però bisogna ricordarsi che con il lavoro gratuito si va a sottrarre del lavoro vero, e spesso a quelle cooperative sociali di tipo B, che hanno un grande ruolo e giocano un grande ruolo nell'assunzione di persone ristrette che si trovano così espulse dal mercato del lavoro. Quindi attenzione anche a queste cose qua. E anche lo stesso articolo 20-ter dell'ordinamento penitenziario, fra l'altro, prevede che per il reinserimento nei programmi di pubblica utilità si tenga conto delle professioni dei detenuti. Quindi molto importante questo aspetto. Do la parola a te, Antonella, ci porti in Tunisia con una regista. Benissimo, grazie. Grazie anche per aver parlato di diritti, Caterina, perché è sempre importantissimo sottolineare questi aspetti. Comunque, noi invece andiamo, come diceva Caterina, in Tunisia, e anzi parliamo della storica candidatura all'Oscar 2021 al Festival di Venezia di una donna, una regista già famosa, in realtà, che si chiama Kuteir Ben Hania. La Tunisia, che per la prima volta entra nella cinquina finale per la categoria miglior film internazionale, il 25 aprile dovrà, che è il giorno della premiazione ovviamente, dovrà vedersela contro le pellicole in rappresentanza di altri paesi, Danimarca, Bosnia e Erzegovina, Hong Kong e Romania. Quest'ultima anche lei ha la sua prima storica candidatura. E questo primissimo debutto della Tunisia è reso ancora più speciale grazie appunto alla presenza di una donna, che è Kuteir Ben Hania, regista e sceneggiatrice del film che si chiama The Man Who Sold His Skin, cioè l'uomo che ha venduto la sua pelle. E il film selezionato per gli Oscar è presentato in anteprima alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica nel settembre 2020. Tra i protagonisti c'è anche un'italiana, un'attrice famosissima, Monica Bellucci, questa volta in versione bionda. Classe 1977, Kuteir è nata a Sidi Bouzid, la cittadina della Tunisia centrale, dove è scoppiata tra l'altro la rivoluzione dei gelsomini nel dicembre 2010, poi sfociata nella primavera araba del 2011. Il pubblico internazionale, come vi dicevo, l'ha già conosciuta grazie ad altri film come Beauty and the Dogs, e presentato a Cannes, e ora partecipa con questa nuova produzione. Cutter, all'annuncio di questa sua candidatura si è detta incredula della scelta e soprattutto molto contenta perché ha ben chiara l'importanza culturale e sociale del suo lavoro. E cito le sue parole. Lei dice che è un orgoglio per me rappresentare la Tunisia, ma sebbene non sia la prima volta, anche l'Africa e i paesi di lingua araba io li rappresento tutti. È proprio la trasversalità dell'arabo che le ha consentito di raccontare in questo film la storia di un rifugiato siriano in Libano che per riuscire ad arrivare in Belgio, vende la pelle della sua schiena a un tatuatore. E in quella che in realtà poi diventa un po' la riflessione sul prezzo che siamo disposti a pagare pur di ottenere la nostra libertà, quindi vendendo anche proprio la nostra pelle. Il progetto è nato in effetti dall'incontro di due mondi, uno dell'artista belga Wim Deloy e il mondo dei rifugiati politici nello specifico, soprattutto siriani, che devono combattere con i documenti, i permessi di soggiorno e tutta quella trafila enorme per poter poi vivere da persone più o meno libere. La regista si è anche chiesta cosa accadrebbe se un artista famoso offrisse a un rifugiato di diventare una sua opera vivente per ottenere la libertà di movimento, che è proprio rappresentata da questo protagonista siriano che si troverà a vendere la pelle della sua schiena. Cutter spera che la scelta del suo film riporti l'attenzione internazionale sul suo paese con una notizia positiva finalmente sulla Tunisia. Ne approfitto per lanciare un brano, che è il brano di Fairuz, che è lo pseudonimo di Nuhad Haddad, che è una cantante libanese conosciuta con un soprannome molto importante, cioè nostra ambasciatrice presso le stelle. A voi il brano. بتذكرك كل ما تجي لتغيب وجهك بذكر بالخريف ترجع لي كل ما الدنيا بدها تعتم مثل الهوى اللي مبلش عالخفيف القصة مش تأس يا حبيبي هاي قصة ماضي كان عنيف بس هلا ما بتذكر شكل وجهك بس بذكر قديش كان أليف بعدو قلي بعدك ظريف بعدو بيعني لك مثل الخريف خبرني ان بعدك بتحب ما بعرف ليش عم بحكي ولا كيف بعدو قلي Ben ritrovati sulle note musicali di Fairuz, la nostra cantante libanese. Siamo con te, Ignazio De Francesco, con la nostra rubrica Viaggi. Siamo passati da Gerusalemme, la grande città, fino ad Ain Arik, un piccolo villaggio della Palestina, oggi a Damasco, che è stata anche la prima capitale dell'impero islamico nel VII secolo dopo Medina. Raccontaci di Damasco. Damasco mi allaccio subito alla faccenda di Fairuz, che a Damasco io ho imparato che ci si sveglia, un arabo si sveglia con Fairuz e va a letto con un Kulthum, cioè va a dormire ascoltando la grande cantante egiziana, ma il mattino ci vuole la sua voce, come avete sentito, stupenda. E Damasco sì, è stata la prima grande capitale dell'impero degli Omeyadi, Ma dobbiamo dire che Damasco esisteva ben prima, ecco, dell'impero islamico, una città antichissima, si dice una delle prime città della storia, del Medio Oriente, della civiltà umana, che ha un fascino incredibile per le sue reperti archeologici, per i suoi popoli, per il suo intreccio ancora di culture. Io vivevo nel quartiere cristiano, vicino a me c'era quello che era i resti del quartiere ebraico, poi c'era tutto il quartiere arabo, islamico, armeno e la moschea degli Omeyadi, che era stata già la chiesa di San Giovanni Damasceno. Per me l'incontro con Damasco è stato l'incontro di cui avevo bisogno, anche psicologicamente, lo confesso qua a tutti, dopo l'esperienza così difficile di Gerusalemme, di Ayn Harik, l'incontro con la grande cultura. E quindi i grandi intellettuali, posso ricordare Hassan Abbas, che è morto recentemente, un grande critico d'arte, poi Maher Sharif, il grande storico palestinese, e poi tanti altri, che sono stati un incontro molto importante, molto formativo per capire che cos'è il mondo arabo, il mondo islamico. E poi straordinari i ragazzi dell'università con cui ho studiato un anno alla facoltà di lettere e filosofia, sempre discussioni con ragazzi di 20 anni, parlavamo di tutto, di religione, di amore, di ogni cosa possibile e immaginabile, e lì ho visto nascere la primavera araba 10 anni prima che scoppiasse, ma ne parleremo poi dell'Egitto. Quindi un mondo di studi, diciamo, di libri e di biblioteche per me. Ignazio, il mondo di studi, di biblioteche, ma anche di svago, immagino, un caffè, un posto dove trovare un attimo di riposo e di convivialità. Allora, il caffè, sì, il caffè ve lo do subito. Purtroppo adesso a Damasco non ci si può andare, ecco, per la situazione tragica nella quale si trova. Ma Damasco è più grande e la sua storia è più lunga di queste guerre, di questi anni. Allora, quando uscite dalla moschea degli Omeyade, scendete un vicoletto che scende verso poi il quartiere armeno, e sulla destra trovate un caffè dove ci sono gli ultimi cantastorie delle Hikayat. Cioè le Hikayat damascene sono questi poeti che andavano a dire la grande letteratura. Io ho sentito declamare dei versi come questo, per esempio, Shanfara, Hakim, Ubani, Ummi Sudura, Matia, Konfa, Inni ila Kaumen Siwa, Kon la Amialu. Ecco, dice: io sto preparando la mia cavalcatura, me ne vado da un altro popolo, cioè il brigante che lascia il suo popolo. È come leggere Dante o Petrarca, ma lì non c'erano degli critici letterari, c'era il popolo, c'erano gli operai, c'erano i carrettieri che dopo la preghiera del Maghreb tutti i giorni andavano lì per ascoltare i poeti. Grazie Ignazio, e oggi, adesso a metà della nostra mattinata, lancio sempre un brano di Frank Sinatra, Love, che però è stato scritto e composto dal cantante statunitense Nat King Cole nel 1965, poi reinterpretato da vari artisti, tra cui anche il nostro Frank. Ascoltiamolo, Love, Frank Sinatra. Is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love, is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two. Rieccoci, bentornati su Liberi Dentro e siamo sempre con Agnese Drusiani. Bentornata Agnese con noi su Liberi. Ciao Caterina. L'ospite fissa, ormai è un piacere averti con noi. È un piacere per me. E oggi parliamo di tossicodipendenze, sempre legate al percorso salute, promozione della salute che stiamo facendo insieme a te. Però prima bisogna fare una doverosa premessa, ovvero il fatto che quello tra le carceri e le droghe è un, diciamo, un rapporto dalle molteplici relazioni, nel senso che oltre il 35% della popolazione detenuta è in carcere per la violazione delle leggi sulle droghe e un quarto della persone detenute sono conclamate, dichiarate tossicodipendenti. Quindi la domanda che mi interessava farti era capire come funziona nel momento del primo ingresso, ne abbiamo parlato anche le scorse volte, la presa in carico, in cura, ecco, delle persone che si dichiarano tossicodipendenti. E poi tornerò anche sul fatto di dichiararsi tali. Allora, sì, al primo ingresso, diciamo che nella prima, chiamiamola intervista, comunque primo colloquio che fa il medico appena uno arriva, tra le diverse domande che vengono fatte c'è anche quella legata alle dipendenze, alle dipendenze da sostanze di qualsiasi tipo. In quell'occasione, se la persona si dichiara tossicodipendente, dipendente quindi una di queste sostanze, il medico immediatamente prenota già la prima visita specialistica e quindi tendenzialmente il giorno dopo, facciamo che uno arriva di notte, il giorno dopo, comunque appena uno arriva e appena c'è la possibilità, il medico specialista CERT va a vedere la persona, ci fa il primo colloquio anamnestico. Se la persona è già in carico a un CERT esterno, a un servizio per le tossicodipendenze sul territorio, lo deve assolutamente dire, perché in questo caso c'è la possibilità di mettersi in contatto con il suo servizio e quindi chiaramente mantenere tutto il percorso di cura e la terapia che veniva fatta anche fuori. Bravissima. Se invece la persona non si dichiara, adesso stiamo proprio parlando che sta alla coscienza della persona dichiarare quella che è una sua dipendenza, cioè la conoscenza del suo quadro di salute. Se non lo fa, non può essere aiutata, immagino. No, perché il problema è questo, che ovviamente nel momento in cui uno dichiara di essere tossicodipendente all'ingresso, gli vengono fatti anche gli esami, nello specifico viene fatta e vengono prese le urine, che comunque è la modalità principale con cui viene rilevato ovviamente la sostanza all'interno dell'organismo, e quando le urine risultano positive, chiaramente in questo caso si ha la conferma della dipendenza che è stata dichiarata. Ovviamente è passato un po' di tempo, questa cosa non è possibile farla perché non c'è più traccia della sostanza all'interno dell'organismo, e quindi se uno non lo dichiara subito non è possibile fare questo tipo di controllo. Specifico che l'eventuale unico controllo che si può fare una volta che è passato del tempo è il famoso esame del capello, ma l'esame del capello è un esame molto costoso a carico poi della persona. Quindi l'invito è sempre quello di dichiararsi, se si ha una storia di dipendenza, senza alcuna vergogna, di dichiararsi all'ingresso, chiaramente, perché questo comporta poi di essere seguiti nel modo giusto, come per qualsiasi altra patologia. Grazie, chiarissimo. Lanciamo un brano e poi riprendiamo. E il brano che lanciamo oggi è Cuba Libre di Zucchero. Eri la mia vita, la mia religione sempre. Eri un sole che mi stava in fronte. Eri il ritmo delle mie notti. Hasta l'asta sempre, domani vado via, da San Francisco night. A San Francisco night, io non ci torno più, che mi dispiace lo sai, ma non ci credo più. I nostri sogni nel vento, E rieccoci sulle note di Zucchero, Cuba Libre. Ritorniamo sempre con te, Agnese, sulla... stiamo affrontando la questione delle tossicodipendenze legate al carcere. E sottolineavamo l'importanza della presa di coscienza della persona che una volta che giunge nella struttura penitenziaria ha, come dire, anche il dovere, come dire, morale per se stesso di dichiarare quella che è la sua storia, come dicevi tu, di tossicodipendenza, per essere preso in carico, per essere aiutato, per essere seguito. E volevo chiederti come funziona poi questo percorso di presa in cura, in carico della persona. Allora, diciamo che la presa in carico della persona poi con tossicodipendenza segue due grandi filoni, nel senso che c'è la parte più clinica medica, che è quindi quella per cui si viene seguiti rispetto alla terapia, che spesso è una terapia sostitutiva, per esempio, oppure una terapia antiastinenziale fatta per le persone con tossicodipendenza. E quindi in questo caso uno viene visto, visitato e seguito dal medico CERT, specialista. Contestualmente, all'interno dell'equipe per le tossicodipendenze, noi abbiamo assistenti sociali e psicologi che, su richiesta della persona, possono andare a conoscerla, a colloquiarla, per valutare quali altri supporti dare. Esempio, c'è la possibilità di essere seguiti, di fare un percorso psicologico all'interno per le persone con tossicodipendenza. Altro esempio, se ci sono i requisiti che sono diversi, sui quali non mi soffermerò ora, se la valutazione viene fatta di un certo modo, c'è la possibilità per le persone con tossicodipendenza e con una pena inferiore a 2 anni, se non erro, di poter andare a scontare la pena in comunità, quindi comunque tutta la parte della pena alternativa. Ecco, questa è una delle possibilità, ci tengo a sottolinearlo, non è, come dire, automatico, perché è una delle possibilità di cura per le persone con tossicodipendenza. Ma diciamo che l'equipe è quella che decide, che discute i casi e che valuta nel tempo come seguire al meglio le persone. Grazie Agnese. Ci puoi semplicemente, se ti viene in mente, dirci se poi questi percorsi funzionano? Cioè se effettivamente si riesce a operare sulla storia della persona anche grazie all'aiuto, come hai detto tu prima, psicologico e di supporto di un'equipe che si aggiunge a quella del medico del CERT. Io credo che assolutamente sia fondamentale e i risultati si ottengono chiaramente. Come diciamo spesso noi e le diverse equip che lavorano con noi ci mettiamo il 50%, l'altro 50% ce lo deve mettere sempre la persona. Grazie Agnese, grazie di tutto. Ci rivediamo la prossima volta, un brano lo lancio io e lancerei il brano Wonderful Life, perché la vita è molto bella, dei Black. Grazie, alla prossima. Ciao, alla prossima. E abbiamo appena ascoltato la nostra Agnese Drusiani dell'equipe sanitaria del carcere Dotta di Bologna e ci ridiamo appuntamento sempre tra poco con il laboratorio sempre dell'equipe sanitaria del carcere, la salute, la promozione della salute, e mentre sempre il laboratorio in replica alle ore 17 su Teletricolore. Vi ricordiamo di scriverci liberidentro.duradio@gmail.com oppure se volete inviarci una lettera, Chiesa Santissima Annunziata, via San Mamolo 240 136 Bologna. Noi ve ne stiamo scrivendo di lettere perché ci teniamo a sapere quello che volete ascoltare, quello che a voi interessa, perché questo è un programma talk, è un programma che nasce per farvi compagnia laddove siete e laddove sarete quando presto finirà la pena, sarete fuori, potremo anche incontrarci e stringerci la mano. E quindi mi raccomando, scriveteci, ringrazio tutti, Antonella Cortese, Ignazio De Francesco e il nostro Pasquale Pitagnello per il montaggio di queste puntate. A domani. Liberi Dentro e Duradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.